9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 16 marzo, Sant'Eriberto. La trasmissione di oggi la dedichiamo al dibattito che è ripartito, quello sui tagli della finanza pubblica. Parleremo poi dopo anche del nuovo accordo europeo per il patto di stabilità e di ciò che è stato deciso venerdì scorso sulle nuove regole per il salvataggio ai paesi a rischio e per l'emissione dei titoli nuovi del debito pubblico dal 2013. Però partiamo dal dibattito che in questi giorni si è rialimentato per alcuni gesti emblematici, simbolici, carichi di significato, che fanno discutere. Tra questi gesti, le dimissioni ieri del presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, l'insigne archeologo antichista, il professor Carandini, che si è dimesso dalla posizione di presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, dicendo a questi tagli non si può più, perché uccidono la possibilità stessa di fare tutela del patrimonio. Trovate oggi su due giornali, per esempio sul Corriere della Sera, un editoriale di Ernesto Galli della Loggia rivolto a Giulio Tremonti, ne leggerò poi qualche brano. Trovate sulla Stampa di Torino un articolo che documenta anno dopo anno i tagli inflitti alla voce della cultura e del patrimonio. La UIL ieri ha riepilogato di quanto si tratta. Insomma, stiamo parlando di interventi che sono diminuiti in percentuali elevatissime. Il taglio complessivo è di superiore a diversi miliardi, e oggi come oggi destiniamo alla cultura lo 0,2% appena del bilancio nazionale. Tra altri gesti che hanno fatto discutere, per esempio, e a me piace molto segnalarlo perché sono naturalmente un melomano e quindi piace la musica, e penso che si debba fare musica con grande attenzione al denaro pubblico e alla capacità di saper raccogliere denaro privato, ed è avvenuto che all'inizio di questa settimana il Consiglio d'amministrazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che è una degli enti, delle istituzioni musico-sinfoniche più capaci di raccogliere fondi anche da parte del privato con le aziende sponsorship, quindi con grande attenzione al costi ricavi, però il presidente e sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Bruno Cagli, si è presentato all'inizio della settimana dimissionario, anche lui con una severa protesta contro i tagli. E allora noi abbiamo deciso, prima di approfondire il dibattito su tagli sì, tagli no, tagli lineari, scegliendo cosa ci chiede l'Europa, e un bilancio quindi della politica finanziaria di questi anni e di questi tempi, di cominciare proprio dando voci oggi a Bruno Cagli, domani al professor Carandini, perché ci spieghino il senso profondo della battaglia per la tutela dei valori culturali e del patrimonio del nostro paese. Abbiamo con noi Bruno Cagli per questi primi minuti iniziali, io molto lo ringrazio. Allora, Presidente, buongiorno. Il significato del suo gesto e com'è andata in Consiglio d'amministrazione? Ma il Consiglio di amministrazione ha respinto le dimissioni che io ho sospeso. L'ho sospeso perché c'è stato un intervento del dottor Letta con un comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio che lascia aperto uno spiraglio, e nello stesso tempo anche un pronunciamento del sindaco Alemanno. Ma la situazione di Santa Cecilia è paradossale: io mi sono dimesso perché Santa Cecilia, se risparmia riducendo il numero dei concerti, perde di più, perché noi abbiamo le masse artistiche che dovremmo tenere a casa. Noi stiamo occupando tutti gli spazi possibili e immaginabili. Due anni fa abbiamo fatto circa 900 appuntamenti annuali. L'orchestra adesso sta partendo per una tournée di 9 concerti in Europa, poi ne faremo nelle altre parti del mondo nel corso dell'anno. Saremo a Salisburgo per la prima volta nella storia. Noi facciamo tutta questa attività. Lo Stato ci ha ridotto gradualmente e quest'anno non ce la facciamo più. Il problema è che il risparmio che poi lo Stato comporta è miserrimo, perché a conti fatti, col nostro pubblico che è in aumento paradossalmente in questo momento di crisi, con la grande attività che facciamo e con le entrate che ci vengono dall'estero, che sono noi restituiamo allo Stato due terzi di quello che lo Stato ci dà. Quindi il risparmio è grottesco e si sacrifica la più antica istituzione musicale del mondo attiva. Noi abbiamo 440 anni e siamo ancora non in piena attività, ma in super attività. C'è anche un altro fatto, noi stiamo facendo con questa sera è la sera dà l'avvio alle feste per i 150 anni, noi facciamo in contemporanea quattro concerti, uno qui, uno davanti al Presidente della Repubblica al Quirinale, uno su richiesta del Comune alla Piazza del Campidoglio e finalmente dalle 11:30 a mezzanotte all'Altare della Patria. Questo è una delle nostre giornate. E aggiungo che ci sono anche delle manifestazioni oggi qui per i bambini nella nostra attività per le scuole. Quindi voglio dire, andiamo tutti a casa, andiamo tutti a casa. Noi non ci possiamo permettere di risparmiare, perché se si risparmia si perde di più. Si pagano i professori d'orchestra a vuoto e questa è la politica che si è fatta un tempo in Italia. Presidente, è inaccettabile. Presidente, visto che l'orizzonte è quello di una finanza pubblica che deve contenersi, anche se, ripeto, qua i tagli alla cultura documentati tra 2008 e 2013 sono alla sola cultura, quindi sommando il FUS e sommando quelli per il patrimonio e beni sono superiori ai 3 miliardi, di cui 560 milioni di euro solo quest'anno. Ma poiché l'orizzonte della finanza pubblica è inevitabilmente dovuto per quello che ci chiede l'Europa alla restrizione, la sua proposta, una volta difesa l'importanza di quello che fate, è che come si potrebbe ovviare, per esempio, a darvi più risorse dai privati? È possibile equilibrare quello che lo Stato dà in meno? Ma certo, ma noi però i privati andrebbero minimamente incoraggiati. Esatto. Noi abbiamo risorse proprie che sono quest'anno del 2010 il 54%. Infatti, siete dei virtuosi da questo punto di vista. Abbonamenti, donazioni private e poi sponsor privati. Ma come incentivarli di più? Incentivarli di più, se noi lo cerchiamo di fare e ogni anno miglioriamo questa situazione. Certo, se non facciamo i concerti non vengono incentivati, e questo è evidente. Quindi c'è un altro fatto, che in questo paese si è sempre detto, dice va bene, qualche sovrintendente ha detto non fai il festival di settembre. Beh, forse in qualche teatro in cui l'apporto pubblico copre l'80%, il 90% ne esistono, questo vuol dire un risparmio. Per noi, se io non facevo il festival di settembre con le sinfonie di Beethoven, oltre aver pagato orchestra e coro a casa, che è uno scandalo, avrei avuto una perdita di 200-300 mila euro, perché la biglietteria è andata benissimo, abbiamo fatto su 8 concerti, 7 esauriti della sala di 2800 posti, non sto parlando della saletta, e questa è la realtà. Allora si deve premiare chi produce, si deve premiare chi ha un contatto con il pubblico, con gli sponsor eccetera, e casomai dove si deve andare a tagliare è per quelli che non producono. Invece se si incoraggia il saltare i titoli, come qualche teatro ha anche fatto per risparmiare, non mi pare che questa è una buona politica. Questa è una realtà che purtroppo è una cosa che in Italia si è fatta. Gli teatri nel corso dei decenni hanno diminuito la propria produzione, a differenza dei teatri all'estero. Un teatro d'opera all'estero fa concerto e opera tutti i giorni, minimo 5 giorni a settimana. Questa è la realtà è che la cultura produce anche. Vogliamo mettere anche un'altra realtà di cui nessuno parla, è vero, a Roma c'è il Papa, c'è il Colosseo, ci sono le rovine romane, ma noi abbiamo anche per certi concerti, come questo di Pappano in questa settimana, una presenza di ospiti stranieri che vengono apposta per questo. Questo non è visibilissimo a Roma, perché Roma ha tante cose, ma io che ho diretto tanti festival in Italia so qual è l'indotto che la cultura ben fatta porta. Questa è la realtà. Allora, io penso che complessivamente. Io ringrazio molto il presidente Sponzinente. C'è un ultimo punto, se lei me lo consente. Certo. Il ministro aveva promesso di ritornare almeno col FUS al 2009, che era già tagliatissimo, e ha detto questo è il livello che non si, al di sotto del quale non si può andare. Noi ci siamo attrezzati per rispettare questo, per trovare altre risorse, ma sotto quel livello del 2009 non si può andare. E invece nelle ultime due settimane alla cultura complessiva sono aggiunti altri 77 milioni, di cui 27 allo spettacolo e 50 a tutto il settore, dovuti agli accantonamenti, dice il Tesoro, per la quota parte relativa alla cultura. Ma perché? Perché le entrate, che erano i 2,4 miliardi previsti dal Tesoro per l'asta delle frequenze digitali, non sono certe, e quindi non è che non è stato ripristinato solo, come dice Cagli, il livello del 2009, si è andati sotto di altri pacchi di milioni, anche a quello che aveva suscitato le proteste, e cioè relativo alla finanziaria di quest'anno. Allora, la mia opinione è che il ragionamento di Cagli su un ragionamento di transizione complessivamente sostenibile, che però incentiva di più i privati, ma che nel frattempo non impedisca a chi è già virtuoso, come Santa Cecilia, di continuare a fare il più degli spettacoli per incassare, per promuovere, per attirare pubblico, e mi sembra un ragionamento anche economicamente corretto. E da questo punto di vista, ripeto, oggi quando Ernesto Galli della Loggia dice a un certo punto nel suo editoriale, sono sicuro che Giulio Tremonti tutte queste cose le sa bene, ed è la ragione che mi spinge a vincere, leggo, quel timore di apparire patetico da cui si è irresistibilmente presi quando si parla di certe cose ad un politico italiano. Sai che ci capisce e che gliene importa, uno penso subito. Invece credo che Tremonti capisca che in un modo, in una misura che non conosco, gliene importi anche. Quindi lui parte da questo presupposto. Ma i numeri sono contro di lui, e qui Ernesto Galli della Loggia ricorda i tagli ulteriori, e ricorda che siamo allo 0,21% dell'intero bilancio dello Stato alla cultura, eravamo allo 0,34% solo nel 2008, pochissimi anni fa, e si tratta di un taglio complessivo superiore quasi del 40% delle dotazioni. Chiede a Tremonti, Ernesto Galli della Loggia, dobbiamo proprio rassegnarci a questa situazione? Come italiano lui si rassegna, gli pare ammissibile? Glielo chiedo in tutta sincerità, non retoricamente, e glielo chiedo immaginando bene, tra l'altro, tutte le ragioni di fastidio o addirittura di cordiale antipatia che uno come lui può nutrire per il mondo che gravita intorno alla cultura, e per lo più, infatti, un mondo popolato di gente quasi tutta di sinistra, spesso per giunta di quella più conformista, ipocrita e doppio pesista, sempre parole di Ernesto Galli della Loggia. Perché ho rilanciato questo fondo di Galli della Loggia partendo dalla cultura? Perché qui c'è in questione una linea che è quella di fondo della tenuta dei conti di questi anni da parte di Tremonti, e cioè la famosa questione dei tagli lineari, che sostiene il ministro da sempre: o faccio così oppure qua, se faccio eccezioni mi salta tutto il meccanismo. E quindi è così che sono riuscito a contenere il deficit ben sotto il 5% anche l'anno scorso, è andata meglio di quanto si immaginasse. Allora, poiché l'Europa in questi giorni, venerdì per il nuovo meccanismo di il fondo di stabilizzazione dal 2013, tra l'altro occhio perché i nuovi titoli del debito pubblico dal 2013 per l'accordo di venerdì avranno tutti dei patti, dei covenants, per cui chi li prenderà, chi li comprerà, si impegna fin dall'inizio a essere corresponsabile, a dover condividere eventuali clausole di allungamento della loro durata e allungamento e modifica dei loro interessi, cioè delle clausole di default implicito. Attenti che questo vorrà dire non solo per i titoli di nuova emissione come disposto, ma anche per tutto lo stock dei titoli che sono già sul mercato, che il mercato applicherà spread aggiuntivi. Quindi i tedeschi ci hanno messo una minetta sugli spread per i paesi che non sono rigorosi. Dall'altra parte, trovate oggi sui giornali in sintesi il nuovo meccanismo del patto di stabilità, per il quale noi saremo impegnati a diminuire dello 0,5% anno tutto ciò che eccede il 60% del limite del debito pubblico, e non si capisce bene ancora come, oltre al debito pubblico sul PIL, anche la questione del debito privato verrà inglobato. Comunque la prospettiva resta quella del rigore, di un avanzo primario forte, di azzeramento del deficit. E allora, di fronte a questo, che giudizio diamo della politica sin qui seguita? Ecco, d'ora in poi due economisti a confronto. Abbiamo con noi Michele Boldrin, che lo conoscete, insegna alla Washington University di St. Louis ed è coautore di un libro di cui abbiamo già parlato e che io vi voglio riproporre. Il libro si intitola Tremonti, istruzioni per il disuso, e si parla di Tremonti col nickname, col soprannome di Voltremont. Ma perché riparlarne? Perché c'è una nuova edizione, se voi vedete, che è stata aggiornata rispetto alle critiche accuminate scritte da Michele, e di cui ricordo anche che insieme ad altri colleghi economisti italiani all'estero il loro sito, che è noisefromamerica.org. E oltre a Michele Boldrin, che saluto e ringrazio, abbiamo con noi Giacomo Vaciago, che insegna economia politica alla Cattolica, editorialista del Sole 24 Ore. E allora cominciamo da Michele Boldrin. Tagli, non tagli, giudizio su Tremonti. Buongiorno Michele. Pronto? La linea con Michele Boldrin mi pare che sia saltata, o no? C'è? Pronto Michele? Non ci sente. Allora, mentre dalla regia sentono Michele Boldrin, sentiamo un secondo se invece è collegato il professor Vaciago. Il professor Vaciago c'è, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, cominciamo dalla sua opinione su questa cosa specifica dei tagli culturali che anima il dibattito. Beh, quando mi chiedono domande come queste, Oscar, io dico sempre, spero prima o poi di avere un governo di destra che faccia cose di destra, di sinistra che faccia cose di sinistra. Quest'idea che il governo non c'è, fatevi gli affari vostri, a me non piace. Ma mi spiego ovviamente. Governare significa fare scelte, significa decidere, meglio se con una spending review come aveva iniziato TPS, decidere a chi dai i soldi e a quali obiettivi metti i soldi dei contribuenti. Il taglio lineare lo puoi applicare dove vuoi, ma non al bilancio pubblico, per piacere, perché è la castrazione, è la rinuncia a fare politica, a darsi obiettivi e a perseguirli. La cosa divertente è che il nostro ministro, si chiama ministro dell'economia, ma è uno scherzo, perché aveva una struttura di economisti a disposizione, l'ISAE, e l'ha chiusa per prima cosa, per essere sicuro che non si fa tentare dagli economisti. Il nostro ministro ha teorizzato ciò, dicendo appunto che i tagli lineari sono l'unica cosa possibile, come dire che non ci sono alternative. Nota che ancora l'altro giorno, quando l'Istat ha confermato un 1,3 di crescita del PIL, il ministro ha detto che le previsioni del governo sono state confermate. Da quando i governi fanno previsioni? Ai miei studenti spiego che i governi hanno obiettivi da conseguire, non previsioni. Quello è il mestiere che i governi saggi lasciano fare a chi lo fa di mestiere, le previsioni, avendo ragione o torto a secondo di quanto è bravo. Però intendo dire, questo è un paese divertente, il male minore è fare i tagli lineari, sono d'accordo, in assenza di governo speriamo almeno che la barca non si rovesci, ma viva Dio, i paesi normali hanno dei bei governi, quelli di destra fanno cose di destra, quelli di sinistra fanno cose di sinistra, però scelgono. E se la sbagliano vanno a casa. Però scelgono, quindi il giudizio severo di Vaciago, il giudizio di Boldrin. Io Michele prima l'avevo presentato, poi è caduta la linea, quindi non ripeto, è caduta di nuovo la linea, ma ragazzi lo stiamo chiamando dove? In quale spero paese? Che non sia in Giappone. No, non è in Giappone ma in Spagna, quindi, perché lui insegna in Spagna oltre che in America, quindi abbiamo proprio problemi da dove lui collegato. Partiamo con la pubblicità. Eccoci tornati in studio, torno a ricordare la nuova edizione di Tremonti, istruzioni per il disuso, se volete leggere con sapido tratto, a volte molto ironico ma documentato sui numeri, una critica di professor Michele Boldrin e di altri amici economisti che insegnano dopo aver studiato anche in America, soprattutto in America, leggete la nuova edizione aggiornata di questo libro e seguite il blog noisefromamerica.org, che è uno di quelli che io consiglio insieme al mio modestamente, ma loro insegnano e hanno titoli molto migliori dei miei. Allora, Michele Boldrin, Giacomo Vaciago ci ha dato un'analisi precisa, ha detto i governi se esistono, esistono per scelta, non per fare i tagli lineari. Il tuo giudizio? Ma quel poco che ho sentito prima che cadesse la linea, spero non cada di nuovo. Anzitutto ti ringrazio per la pubblicità immeritata. E io sono perfettamente d'accordo con quello che ho sentito dire da Giacomo, che saluto, tra l'altro ci siamo conosciuti quasi 20 anni fa, credo, in qualche commissione. Il problema vero di Tremonti è non solo che questi tagli lineari non solo sono la rinuncia a far politica, sono anche ingiusti. In una situazione come quella italiana, ingiusti e inefficienti, perché il problema di fondo della spesa pubblica italiana non è solo di essere estremamente alta e generando il carico fiscale che genera, ma di essere estremamente mal distribuita. Quindi in una situazione in cui tu spendi male e troppo da un lato e male e molto poco dall'altro, se tagli linearmente stai perpetuando e accentuando questa cosa. Poi il taglio lineare è una bugia, perché se non ho capito male, correggetemi se sbaglio, io non sono in Italia, non seguo i dettagli, le pensioni non sono state toccate. Ah, adesso il governo, insorgerebbe... Quindi 14 rotti, adesso non so più se il 14-15% di prodotto interno lordo che va in pensioni, non mi sembra che vi sia stato un taglio lineare. Non da subito, ma il governo insorgerebbe dicendo che sono stati introdotti i coefficienti attualizzati che nei prossimi anni stabilizzeranno... Ah, li hanno fatti finalmente con 10 anni di ritardo? Esatto. Vabbè, hai fatto tutto tu, giustamente, Oscar, hai risposto per loro e anche sottolineato che tipo di risposta sia. Quindi cerchiamo anche di capirci, questa cosa dei tagli lineari non è solo è quello che ha detto Giacomo Lacciago, giustamente, è anche dannosa perché perpetua e accentua una distribuzione della spesa pubblica che è folle. Poi c'è anche un altro lato, il problema dell'Italia non è solo ritagliare radicalmente, modificare radicalmente l'uso della spesa pubblica, quindi tagliare da un lato, ma è proprio di fare delle riforme vere. Perché sennò non si cresce, esatto. Perché sennò non cresce, smettiamola di prenderci in giro. Io veramente, adesso in questo momento sono a Madrid, ogni volta che mi avvicino all'Europa leggo un po' di più i giornali italiani. Ieri leggevo un editoriale sul Sole 24 Ore, non un editoriale, un commento, un articolo, insomma, mi era stato segnalato di un collega, credo tuo, vostro, un tal Marco Fortis, non so bene chi sia, ho guardato, sembra che sia uno... È il presidente della Fondazione Edison ed è uno dei teorici sostenitori di questa roba del debito interno lordo. Ecco, esatto. Ed sono articoli, francamente, e su questo veramente io mi sto stancando, ho appena mandato un editoriale al Fatto, che è uno dei pochi giornali che... nonostante tutto almeno più pubblica senza censurarsi. Oggi in prima pagina c'è l'editoriale dedicato a me in cui mi si dipinge Marco Travaglio con un costumino fucsia mentre aspiro vapori radioattivi dalle centrali giapponesi. Lo dico sorridendo perché per quanto mi stronchi di critica, però dico a tutti leggetelo perché io non riesco ad avercela con Marco Travaglio, anche se lui lo fa con cattiveria, però io difendo il diritto di Marco Travaglio di pensare che col costumino fucsia aspiro i rapporti radioattivi. Prego. Le cose improbabili. Ecco, io la cosa che a me veramente sorprende è che si continuano a pubblicare sui periodici italiani, sui giornali italiani, anche quelli di grande evidenza, e che soprattutto i ministri e i politici italiani di destra e sinistra continuino a ripetere bugie. La cosa che veramente mi infastidisce è questa continua bugia. Qualcuno mi ha forzato praticamente per amicizia a guardare per 20 minuti le registrazioni di questa cosa anno zero della settimana scorsa. Ah, questa è la lezione del professor Tremonti. Esatto, cioè, Giulio Tremonti, mi dispiace, cioè, io credo che lui sappia che mente. Perché non è possibile, cioè un uomo intelligente, da quello che capisco e mi ricordo vagamente, non può raccontare le cose che racconta così pubblicamente e nessuno ha il coraggio di alzare la manina e dire scusi. Beh, neanche Santoro, posso dire. No, neanche Santoro, infatti tutti, cioè a parte Bertinotti che è comunista come Tremonti è una variante populista del comunismo bertinottiano. Vabbè, oggi rischio la testa, ma va bene, detto questo, no, dimmi perché bugie. Uno che teorizza pubblicamente che la Cassa Depositi e Prestiti, la Salvezza, che la Banca del Sud è buona perché è pubblica, ma si è scordato cos'è stata la Banca Pubblica Italiana? Cioè, com'è possibile che si possa impunemente in Italia dire cose del genere? Dichiarare che tutta la colpa della crisi nostra è dovuta alla globalizzazione fatta male troppo presto. Tu sai che la sua tesi è che con il consolidamento e la protezione delle banche, le banche non hanno più la testa al sud e se lui non avesse rifatto la garanzia pubblica non avrebbe riportato banche al sud. Il problema è, ma il costo degli impieghi al sud dipende dal fatto che non ci sono banche al sud o dipende da altri fattori? Allora, che questo sulle banche al sud è un dibattito antico su cui il buon Riccardo Faini, purtroppo, che ci ha lasciato, svolse la sua tesi, eccetera. Ed è un problema che chi ci lavora sa benissimo, dipende dai costi dell'investire al sud, dalla mancanza di redditività, dal fatto che i prestiti tornano indietro, il tasso di default è molto più alto, eccetera, eccetera. Maggior rischi, sicurezza. Non c'erano le banche con la testa al sud. Quando c'erano le banche con la testa al sud, il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli, sappiamo benissimo cosa è successo, infatti erano banche pubbliche. Questo non ho capito perché nessuno alzi il ditino quando Tremonti dice che grazie a Dio ora le banche sono pubbliche, sono le private, alzi il ditino e chieda, scusi signor Ministro, ma lei si ricorda del Banco di Napoli? Oh, ma professor Boldrin, prima di tornare un secondo a Bacciago e poi restituire a te, la sua opinione è che quindi in Italia c'è anche un problema, per così dire, non voglio dire di asservimento, ma di ottundimento da parte dell'informazione, della comunità accademica? Com'è che passano queste tesi senza dibattito, secondo lei? Io non lo so. però la colpisce. Questo è uno degli aspetti che la colpisce nessuno di più. Fa mai le domande difficili, nessuno fa mai le domande oneste. I politici raccontano bugie continuamente, impunemente, e non c'è giornalista o editorialista, o anche qui riporta, c'è una buona abitudine dei giornali in giro per il mondo, che se il ministro, il politico di turno fa una dichiarazione, qui c'è una palese falsità empirica o di dati, tu la riporti virgolettata. E dopodiché, in modo molto neutro, nella linea seguente dice: i dati Istat, o quello che è, o CDE, dicono ABC. Fine. Il lettore da solo nota che quello sopra ha detto più 3%, il dato CDE dice meno 2, affari suoi. Quando lo vede per 32 volte si fa un'opinione. Ecco, professor Vaciago, questo giudizio e questa analisi del professor Boldrin, che è un'analisi e un giudizio poi sulle classi dirigenti, quelle accademiche, sui giornalisti in primis, non è solo un giudizio su Tremonti, per così dire, lei la condivide o meno? Faccio un esempio, io il professor Marco Forzis lo conosco da una vita, so che è uno dei maggiori e più attenti analisti, per esempio, della distribuzione territoriale dell'economia italiana, dell'export del Made in Italy. Poi su questo punto specifico del debito interno lordo, cioè di coimputare anche il patrimonio, lo stock del patrimonio degli italiani, dicendo non conta solo il debito pubblico sul PIL, ma conta anche questo per dare l'idea di solvibilità di un paese, io dico sì, l'ho anche scritto, però dico ma, perché poi in realtà a rispondere del debito pubblico contratto dallo Stato sono gli asset dello Stato e deve essere lo Stato, perché altrimenti diventa un modo per cui lo Stato domani mi viene a prendere i soldi con la patrimoniale se ne corrispondo anch'io in garanzia al mio stock patrimoniale. Detto questo, giudizio di Boldrin, che impressione le fa? E l'impressione è esatta. Gli italiani seri che io conosco stanno quasi tutti all'estero e si occupano di dove va il mondo. In Italia c'è un dibattito a volte che prende toni paradossali. La cosa più da leggere dell'articolo di Fortis di ieri non è l'analisi il capitalismo americano è peggiore del nostro, che è un'opinione nel lungo periodo. Non è vero, in ogni periodo può essere vero. È la frase quando dice ma noi per fortuna abbiamo Tremonti che ci salva, che è una perla. Però anche questa, ahimè, però anche quella è un'opinione o no? Oscar, questa ahimè era sul Sole 24 Ore dove anch'io scrivo. Inguaiatemi cose... tutti oggi. Oh ragazzi, il direttore è cambiato da stamattina, almeno questo, quindi diamo al nuovo direttore la chance. Vediamo con Roberto. Diamo con Roberto Napoletano la chance. Che conosciamo da prima. Allora, attenzione. Il servilismo non è una novità degli accademici italiani e tener buono un ministro e trattarlo bene e far carriera non è la prima volta che succede. No, perché quindi, poi il paradosso è che molti danno del servo anche a me, che come vedete faccio trasmissioni così, conosco Giulio Tremonti da una vita. Questo Oscar, non ci ha mai provato nessuno a darmi del servo. Questo è vero. Perché le mie opinioni... I miei studenti le sentono tutti i giorni. E quindi attenzione, le mettono in coerenza. Attenzione, attenzione. Il ruolo dell'accademico è di aiutare la gente a capire e non di dare medaglie. Io non scrivo mai bravo, cattivo, tizio o caio. Non penso mai che il mio compito sia di dire se è bravo o stupido un ministro. I voti perché li diamo agli studenti. Decide e rispetto il governo, sono stato consulente del governo Berlusconi, alle belle arti con Giuliano Urbani e non me ne sono mai pentito e non me ne vergognavo ovviamente, se no non l'avrei fatto. Quindi c'era una missione da svolgere, c'era Salvatore Settis e Paolucci con me, bellissimi nomi dell'Accademia Italiana seria e io ho accettato di fare il consulente del governo Berlusconi degli anni 2000. Andiamo avanti, adesso i problemi del paese. Allora, facciamo pulizia di un mare di sprechi che il paese ha, perché nel bilancio pubblico si annidano tanti di quei topi che poi ogni giorno quando apri il coperchio trovi immondizie, dagli immobili dati agli amici e così via. Ma come si fa pulizia se non hai il coraggio dell'impopolarità? Il dramma, quando gli amici americani mi chiedono ma insomma cosa succede da voi, il dramma è che abbiamo un governo inutile che, volendo l'applauso e non accettando i fischi, le cose utili, ricordatevi Thatcher e Reagan, mica erano popolari all'inizio. No. Maledizione, lo scontro sociale fu durissimo. Proprio ma fecero una pulizia incredibile che consentì a Inghilterra e America di riprendere a crescere altri 30 anni. Questo, su questo siamo tutti e tre d'accordo, però temo che siamo in minoranza. Proprio ieri l'esempio che ti faccio che è il coraggio dell'impopolare. L'esempio che ti faccio è proprio ieri Berlusconi va dai poliziotti che lo fischiano, e la risposta del premier ai poliziotti è dire: ma guardate che le risorse ci sono, perché non fate fuori Tremonti? È lui il responsabile, testuali parole. Quindi è singolare, no? Che il Presidente del Consiglio così risponde a un pezzo di Stato che ha torto a ragione anche lì, perché con le taglie lineari pure lì la sicurezza è una delle voci che non bisognerebbe tagliare, però il Presidente del Consiglio indica il suo ministro come il responsabile del guaio. Quindi anche tra loro sono in realtà a gara a chi è più responsabile, o no? Facciamo. Battute da avan spettacolo, andiamo avanti, indegne di un uomo di Stato, non si dà mai la colpa ai propri collaboratori, ma quando mai? Esatto. Quindi andiamo avanti, allora il Paese ha bisogno di ricette radicali, la mia preoccupazione è che dopo le prossime elezioni, che prima o poi ci saranno, chiunque formi il governo difficilmente avrà il coraggio dell'impopolarità. Cosa fanno gli altri paesi in questi casi? Fanno governi di coalizione, con dentro tutti, e ahimè sì, con dentro tutti. Ahimè, ma questa è la stessa tesi di Tremonti, Vaciago. No, non lo so, io non l'ho copiata, l'ho vista fatta in Germania. Temo che sia la sua stessa tesi sostenuta prima del voto e più volte riaccennata. Sì, ma con un obiettivo ben chiaro, fare le cose impopolari per condividerne l'impopolarità, e poi si riparte. Va bene, allora adesso abbiamo solo un minuto di informazione sulla circolazione stradale e ripartiamo poi con Boldrin su questa idea, se sia una possibile, utile per darsi il coraggio di tagli nell'ammontare e nel criterio di allocazione della spesa per sforbiciare laddove ce n'è molta completamente sbagliata che dà incentivi distorcenti e laddove invece non ce n'è dove servirebbe, e per contemporaneamente abbattere le tasse, perché se no qua i margini per la crescita non ci sono. Strada. Eccoci tornati, allora domanda per Michele Boldrin: asseverato che Vaciago è d'accordo con la sua opinione sul servilismo, diciamo così, sulla compiacenza con cui i giornalisti, accademia, seguono il dibattito politico e le posizioni del ministro, domanda: è ipotizzabile, è giusto pensare che solo con una grande coalizione, con un'intentona, sia possibile mettere insieme il coraggio che altrimenti nessuna delle due parti ha per tagliare e crescere insieme, però con una strategia di crescita? Beh, guarda, visto che siamo d'accordo su tutto, almeno su questo discrepiamo un po', faccio due osservazioni. Una, proprio gli esempi che voi stessi avete dato, anzi Giacomo, di Reagan e Thatcher, che hanno preso delle misure pesanti e serie a suo tempo, non erano governi di coalizione. Anzi, avevano Un'opposizione feroce che tutti conosciamo, eccetera, eccetera. Quindi io toglierei il solo in certi paesi dove c'è una certa dinamica politico-sociale. E dove i governi, quando tocca, fanno il loro dovere, non fanno le cose che giustamente Giacomo ha sottolineato, orrende, di un primo ministro che discredita il suo proprio ministro dell'economia, va bene, le scelte si fanno. Ricordo anche Schröder, perché è vero che la grossa coalizione della Merkel ha preso alcune misure, ma le misure serie e pesanti che prima oggi, erano esattamente, vennero prese da Schröder, il quale ci rimise il governo, i quattro pacchetti che i tedeschi possono. Comunque non voglio neanche entrare, perché va anche bene, è vero che delle volte sarebbe opportuno. Guarda, qui in Spagna, dove io opero, anche credo di avere una visibilità pubblica molto maggiore di quella che ho in Italia, io ho sostenuto pubblicamente per molto tempo e anche privatamente con quei politici con cui interagisco l'anno scorso, che c'era necessità di reagire con un governo di coalizione. La cosa non è andata, vabbè, adesso è troppo tardi, adesso si va alle elezioni, quindi non sono a priori contrario. Qual è però l'elemento che manca in Italia? Qui ritorniamo al dibattito pubblico, al ruolo degli accademici, al ruolo della stampa. In Italia non c'è consenso su quello che c'è da fare, anzi non c'è nemmeno dibattito su quello che c'è da fare. Cioè, qui in questo paese, quello che Lupi dice, che hanno le pezze sul culo, in realtà stanno comunque, nonostante la grande crisi, ancora meglio di noi in Italia. Comunque almeno qui c'è un consenso, c'era un dibattito pubblico esplicito su riformare il sistema di pensioni, riformare la contrattazione collettiva, riformare il meccanismo di salariale, di promozione del settore pubblico e via andando. C'è una serie di cose serie, fondamentali, che si sono discusse, si vanno discutendo da due anni in modo molto pubblico, c'è di fatto un consenso delle élite che si sta sviluppando, si sta creando, ed è un dibattito nel quale si parla di numeri, non c'è nessun e quando un ministro fa giochetti assurdi come il mio amico Michele Sebastian, che 20 giorni fa in un attacco di populismo sfrenato se ne esce con queste idee folli che per risparmio energetico abbassiamo il limite di velocità a 110, i suoi stessi colleghi amici sui giornali dicono: Miguel, ma fai due conti, ma cosa, sei impazzito, ma perché dici queste cose, capisci? E qui, quindi, tornando all'Italia, per prima della grande coalizione, che ci sarà, che non ci sarà, prima di io vorrei che, cioè, spererei, mi augurerei, un dibattito serio e numeri sulle dobbiamo avere il da coraggio maturare. Di mettere i problemi sul tavolo, chiamare le cose col loro nome. Allora, noi tre, mi sembra di capire, siamo tutti d'accordo. Il problema è che bisogna rompere un tetto proprio di vetro che impedisce di discutere di queste cose. Bisogna smetterla di avere questo dibattito pubblico folle in cui ci si continua a dire che stiamo meglio degli altri. Non è poi vero. E la, io credo, francamente, questa è un'altra questione, chiudo. La maggioranza degli italiani che io frequento quando vengo lì, mi sembrano perfettamente consapevoli che non stanno meglio del resto del mondo. La consapevolezza dello star male, della crisi, è molto profonda nelle classi meno abbienti, sì, che poi sono la maggioranza della popolazione, ma anche nei giovani. Io sono subissato, e anche per quelli che mi ascoltano chiedo pubblicamente scusa, non rispondo più. Io ricevo decine di email ogni settimana di ragazzi tra i 22 e i 30 anni che chiedono: come faccio a scappare? Professore, mi aiuti, mi dia un consiglio, ma lei secondo lei che farà? Io ho questa laurea qua, ma non trovo... Confermo. È una cosa disperante, guarda, confermo. Mi fa impressione. Confermo, è esattamente così. In piccolo io posso dire che, perché questo dibattito, per quello che riguarda l'informazione, che è solo un pezzo della mia professione, per quello che riguarda l'informazione molto dipende dai direttori, perché i direttori devono avere la schiena dritta, sì, e devono essere in grado di dire al ministro, alla politica, sì, che protesta: sì, senti, finché ci sono io, decido io chi scrive cosa. Esatto. E bisogna animare sulle proposte di tagli, di tasse, eccetera, eccetera. Bisogna incalzarla la politica. E lo dico per chiunque la pensi in qualunque modo. Io, si sa, ve l'ho sempre ripetuto, e siamo abbastanza d'accordo in realtà con Baciago e con Boldrini, ma capisco anche chi ha un'altra visione. Però il problema è che a non farlo si diventa un paese che ha l'etere, sempre il tampone dell'etere sotto il naso. Questa è la mia stessa opinione. E quindi su questo io non posso che ringraziare Baciago e Boldrini oggi, e sperando di spesso di ricoinvolgerli, perché temo che nel prossimo futuro, con le nuove regole europee, ripeto, dal 2013, se questa legislatura arriva al 2013 così, dicendo che non si può fare niente, perché questa è l'amara realtà, niente, non si può fare niente, discuteremo alla fine della legislatura forse di una proposta di riforma fiscale che forse farà solo campagna elettorale. Questo è ciò che viene proposto. Allora, dal 2013 i titoli di nuove emissioni di tutti i paesi membri dell'euroarea hanno dei covenant, delle clausole, per cui chi li acquista si rende corresponsabile dell'eventualità di un, chiamiamolo semi-default, cioè di un allungamento della maturità temporale o di un cambio dei tassi di interesse. Questo significa che gli spread risaliranno e ripuniranno i paesi che non sono in regola, non solo per debito e deficit pubblico, ma per competitività, cioè per quanta crescita riescono a fare, perché è il rapporto tra crescita nominale di un paese e oneri del debito pubblico quello che il mercato guarda per capire la sostenibilità di un debito. Questa è la mia modestissima opinione di cretino, però io sono contento che gente come Baciago e come Boldrin, con argomenti economici che insegnano eccetera eccetera, insegnino che ci vogliono direttori e giornalisti capaci anche di rischiare la faccia e talvolta anche il posto. Allora, io, dopo averli ringraziati, scelgo un ascoltatore a caso tra tanti che purtroppo oggi abbiamo un po' tagliato. Carlo da Venezia, rapidissimo, prego Carlo. Buongiorno a lei e ai suoi anche ospiti. Io mi domando, a proposito del FUS, io lavoro nell'ambito dello spettacolo come regia a livello locale, sì, ma è possibile che non si possa fare impresa con la cultura? Cioè, noi dobbiamo sempre sottostare a questa idea del FUS che ci dia l'aiutino all'italiana, sì, perché non ci mettono in condizioni di fare veramente impresa? Che investiamo, cioè facciamo investire anche il privato nell'ambito della cultura, lavoriamo e sappiamo che quelle sono le entrate e queste sono le uscite. Cioè, io non riesco a concepire questa idea che lo Stato debba aiutarci in qualche modo, diventa sempre quel meccanismo perverso dove poi alla fine sappiamo che lo Stato ci copre le spese e andiamo in perdita. Carlo, noi che critichiamo, noi dico noi, cioè rinvio al mio blog e al sito dell'Istituto Bruno Leoni, da anni critichiamo l'impostazione della cultura e del FUS fatta sul sul trasferimento pubblico, proponendo grandi incentivi ai privati per subentrare, abbiamo sempre ottenuto come risposta alla sua stessa proposta che questi incentivi consentirebbero alle imprese comode evasione ed elusione fiscale. E per questo quindi si dice che non bisogna dare incentivi in più ai privati, e per questo però si dice contemporaneamente, e lo capisco, le risorse pubbliche sono limitate. Il risultato è una specie di debacle complessiva, a non abbracciare nessuna delle due filosofie. Ed è un altro esempio da cui siamo partiti, e concludiamo per dire che il patrimonio culturale, artistico, dei beni culturali italiani è un asset fondamentale, però bisogna capire come lo si mette a reddito. I privati di più, dico io, il pubblico, dice il pubblico che non ha le risorse, a non fare nessuna delle due cose, una cosa è sicura, anche in questo alla fine l'Italia va a fondo. Grazie agli ascoltatori, grazie al professor Boldrini e Vaciago, per tutti coloro che dicono non hai voluto parlare di nucleare, non parlare di nucleare, non posso parlare di nucleare giorno e notte, le mail contrarie sono arrivate a 15.800, il 95% sono contrarie, leggete tutti Marco Travaglio che col costumino fucsia vorrebbe mettermi in una centrale nucleare, lo dico sorridendo, difendo il diritto di tutti di criticare, purché non pensiate che sia un somaro pagato, perché invece quello mi dispiace, e soprattutto mi dispiace che alcuni abbiano detto che ti venga un cancro, perché il problema è che ce l'ho già. Va bene, a domani, 2 ore per l'Unità d'Italia.